Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Franco Cesari e insieme a Elisa Pasquini e a Francesca Romano faccio parte dell'associazione Energicamente. Oggi vi parlerò dell'intelligenza emotiva, introducendo questa prima puntata su un argomento particolarmente importante. Daniel Goleman, psicologo, scrittore e giornalista statunitense, in una sua fortunata pubblicazione da titolo The Emotional Intelligence del 1995, identifica con il termine di intelligenza emotiva un insieme di competenze che lo stesso Goleman qualifica come un modo particolarmente efficace di trattare se stessi e gli altri. Tra queste competenze, per esempio, rientrano la capacità di motivare se stessi, quella di continuare a perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, poi la capacità di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, la capacità di modulare i propri stati d'animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare, e infine la capacità di essere empatici e di sperare. Più in generale possiamo dire che a base dell'intelligenza emotiva possiamo individuare due macro competenze, una competenza di tipo personale legata quindi al modo in cui controlliamo noi stessi e una competenza di tipo sociale legata maggiormente al modo in cui gestiamo invece le relazioni con gli altri. Entrambe le macro competenze sono caratterizzate da abilità specifiche, in particolare alla base della competenza personale possiamo trovare la consapevolezza, la padronanza di sé, la motivazione. Alla base invece della competenza sociale possiamo trovare l'empatia e le abilità nelle relazioni interpersonali. Per quanto riguarda la competenza personale, quindi la consapevolezza di sé, implica innanzitutto la capacità di riconoscere le proprie emozioni, dando loro un nome. In genere quando qualcosa non va, il lavoro non riesce, i colleghi non ci capiscono, non ci considerano o peggio ancora ci sfruttano, l'emozione prevalente è la rabbia. A ben guardare la rabbia è un'emozione secondaria, cioè l'espressione di qualcosa che sta più a fondo e che può essere di volta in volta delusione, sconforto o anche paura. Dare il nome giusto a ogni emozione significa già esercitare una prima forma di contenimento, di controllo. In secondo luogo, la consapevolezza di sé comporta un'autovalutazione accurata delle proprie risorse interiori, delle proprie abilità e dei propri limiti, e quindi porta sia alla percezione del proprio valore, delle proprie capacità, sia a una sana fiducia in se stessi. Su queste basi sarà poi possibile proporsi con fermezza quando si tratta di mettere in evidenza i propri punti di vista, i propri diritti, o di dar voce a opinioni impopolari che però riteniamo giuste. Poi la padronanza di sé. Seppur questa abilità, questa capacità, vada intesa principalmente come autocontrollo, quindi come capacità di dominare le emozioni, non implica assolutamente la soppressione o il soffocamento, o peggio ancora la negazione delle stesse. Da questo punto di vista, se tutte le emozioni sono permesse, non tutte possono essere espresse. Infatti, se non siamo responsabili dei nostri sentimenti, di ciò che proviamo interiormente di fronte a comportamenti o avvenimenti, siamo però, tuttavia, sempre responsabili per il modo in cui decidiamo di esprimerli. In questo senso, essere dotati di intelligenza emotiva significa essere in grado di gestire i propri sentimenti, essere quindi capaci di controllarli ed esprimerli in modo appropriato ed efficace. Spesso la ragione per cui molte persone non esprimono appieno il loro potenziale risiede in una loro incompetenza emotiva, cioè in una loro incapacità di gestire le proprie emozioni. In effetti non è raro il caso in cui, pur essendo intelligenti, si agisce da stupidi sull'onda di un'emotività incontrollata, no? A volte impedendo in tal modo una collaborazione serena e finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni. Viceversa, chi è padrone di sé è maggiormente in grado di comportarsi con onestà, agendo eticamente, nel rispetto delle regole, adoperandosi per costruire un clima di affidabilità, di autenticità, ammettendo, perché no, i propri errori e assumendosi quindi le proprie responsabilità per quanto attiene alla propria prestazione, al rispetto degli impegni, all'attenzione, al compito che ci si è prefissi di fare o che è stato assegnato, eccetera. Il concetto di padronanza di sé potrebbe al limite evocare l'intransigenza, la rigorosità assoluta, ma non è così. Implica piuttosto uno spirito di innovazione e adattabilità, cioè l'essere aperti a nuove idee e approcci nuovi, alla ricerca e alla valutazione di soluzioni originali, all'assunzione di prospettive inedite, senza lasciarsi paralizzare dal timore del rischio. Non è, infatti, la semplice ricerca del nuovo fino a se stesso. Nuovo non sempre e non necessariamente deve essere inteso come sinonimo di migliore. O il lasciarsi giudicare e guidare dalle mode, ma all'essere flessibili alle richieste di cambiamento poste dalle nuove circostanze implica l'adottare risposte e strategie adeguate, essere padroni di sé, e quindi significa saper anche riconoscere i bisogni, innescare o gestire il cambiamento. Per quanto riguarda poi la motivazione, questa è data dall'insieme delle tendenze emotive che ci guidano, che ci sostengono o che ci facilitano il raggiungimento dei nostri obiettivi. La motivazione comporta sia la spinta alla realizzazione personale, connessa cioè a cercare la propria soddisfazione, proponendosi obiettivi che ci stimolino, orientandoci al risultato, coltivando impulso a migliorare sempre le nostre prestazioni. Ma comporta anche l'impegno nel dare senso e sostegno anche a un eventuale lavoro di squadra, insieme ed equipe. La motivazione è sorretta dallo spirito di iniziativa che consiste in una tensione verso l'obiettivo, al di là di quanto viene prescritto e degli impedimenti burocratici, e anche nella prontezza di saper cogliere le opportunità che eventualmente potessero derivare da questo. In ultimo, la motivazione viene caratterizzata anche da una dose di ottimismo, no? Inteso come capacità di essere costanti nel perseguire gli obiettivi, al di là degli ostacoli che si incontrano e degli errori inevitabilmente commessi, sia come capacità di puntare sulla speranza di successo, non solo sulla paura del fallimento, assolutamente no, anzi. Una solida competenza personale, con la conseguente capacità di individuare correttamente i propri sentimenti e bisogni, permette anche di mettersi in sintonia con i sentimenti degli altri. Questa è la radice prima, no, dell'empatia, cioè della capacità di comprendere gli altri nei loro sentimenti, nei loro punti di vista, i loro interessi, condividere in qualche modo le loro preoccupazioni mediante quello che viene definito ascolto attivo. E infine abbiamo le abilità che sono alla base della competenza sociale, cioè l'empatia, che è, come già accennato, l'insieme delle abilità nelle relazioni interpersonali, quindi è alla base di una delle due macro competenze su cui si fonda l'intelligenza emotiva nell'ambito della competenza sociale. Essere empatici significa far risuonare dentro di sé i sentimenti degli altri, come se fossero i propri, e senza dimenticare però i propri, in una sorta di vicinanza che non implica però confusione. L'empatia è l'accettazione incondizionata degli stati d'animo, così come vengono offerti nel gioco della relazione. Non si può discutere o negoziare il modo in cui gli altri provano un'emozione. Possiamo discutere o disapprovare i comportamenti, ma non le emozioni sottostanti. Nell'essere empatici, accanto alla condivisione dei sentimenti, c'è anche la valorizzazione degli altri, che si manifesta nel credere nelle persone, nel mettere in risalto e potenziare le loro abilità, nel sostenere la loro autonomia, nel rispettare le loro diverse capacità individuali, i loro diversi interessi individuali, anche dal tipo, dal punto di vista etnico e ideologico, nell'utilizzare le differenze, in sintesi, come delle opportunità, al di là di ogni pregiudizio. In ultima analisi, anche la comunicazione. Si può affermare che non esiste solo un'intelligenza di tipo cognitivo, ma ne esiste un'altra di pari importanza, di tipo emotivo-relazionale, che ci consente di capire meglio noi stessi ed interagire in modo più efficace con gli altri. In questo senso è pertanto facile comprendere come per avere accesso a un successo nella vita e in genere così nell'attività professionale, no, non è sufficiente avere un elevato quoziente intellettivo o essere competenti da un punto di vista professionale. Sì, chiaro, questo è importante, ma occorre anche disporre di un'intelligenza emotiva che ci consenta di essere competenti anche da un punto di vista relazionale. E con questo è tutto per questa prima puntata riguardante l'intelligenza emotiva. Vi ricordo i nostri contatti, che sono il nostro sito internet www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, la nostra pagina Facebook Energicamente Competenze per il Benessere. Vi ricordo poi anche i nostri recapiti telefonici, dove potete inviarci anche dei messaggi in formato WhatsApp. E i telefoni sono Elisa 339-3860123, Francesca 340-2345-340 e il mio che è il 329-8989-669. Ringrazio gli amici di Radio Big World per la loro cortese disponibilità ed ospitalità. Ringrazio voi tutti per seguirci in numero sempre maggiore e con sempre maggiore interesse. Buon tutto a voi e a risentirci presto. Ciao!